Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 18 gennaio 2015, la nuova darsena di Milano è una realtà. Per la città è forse il progetto simbolo dell'Expo, la darsena, ora alimentata grazie al nuovo sistema delle vie d'acqua riprogettato a partire dall'area dell'esposizione universale, è stata inaugurata in tempo per accompagnare l'avvio del grande evento internazionale. Il progetto di riqualificazione degli architetti Sandro Rossi e Edoardo Guazzoni è stato realizzato nei tempi previsti. I lavori sono partiti nel 2013 e si sono conclusi nel dicembre del 2014. Il costo di questo nuovo parco urbano di 800 ettari che rilancia il rapporto tra Milano e la sua rete ricca di navigli è stato di 17 milioni di euro, cifra stanziata da Expo 2015. Fin qui la notizia del 18 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto della nuova darsena è stato presentato 7 giorni fa dal sindaco di Milano Pisapia e dall'amministratore delegato di Expo 2015 Giuseppe Sala, che ha illustrato il rinnovamento della rete idrografica ambrosiana. L'elemento innovativo è costituito da un nuovo canale irriguo delle vie d'acqua a Expo, che è realizzato con lo scopo di riconnettere e razionalizzare gli elementi del reticolo idrico esistente nel confine ovest di Milano e che con i suoi circa 20 chilometri di sviluppo porterà acqua dal Calare Viroresi a nord nel comune di Garbagnate al sito Expo. Nel sito Expo l'acqua verrà usata, verrà fitodepurata, verrà rilasciata e da qui, attraverso le aree agricole e attraverso il sistema dei parchi e nuove canalizzazioni, scenderà giù, passerà attraverso il parco di Trenno, il bosco in città, il parco delle cave, fino ad arrivare al naviglio. Quindi, in altre parole, questo è un intervento che va a riportare acqua e vegetazione laddove lo sviluppo urbano, che è stato estremamente accelerato, come tutti sappiamo, a Milano negli ultimi decenni, ha interrotto delle reti irrigue precedenti. Il nuovo canale alla fine porterà acqua alla darsena. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.